Il punto di Stefano Folli. La vicenda gravissima del serial killer di Genova evaso dopo un permesso premio non è solo un colpo alla credibilità delle nostre malandate istituzioni, minando la credibilità degli sforzi per migliorare la vita nelle carceri, è soprattutto una fotografia sconfortante dei meccanismi che regolano la catena amministrativa. Si può riassumere così: nessuno sa niente e nessuno è responsabile di nulla. Il direttore del carcere candidamente ammette di non aver mai saputo che il personaggio affidatogli, peraltro seminfermo di mente, fosse un pluriomicida. E magari da un punto di vista formale e burocratico ha persino ragione. Con gli stessi argomenti potranno difendersi tutte le figure coinvolte in questo pasticcio. Ognuno rinvierà alla responsabilità di qualcun altro, in un trionfo di incompetenza e leggerezza. È l'inferno della burocrazia. Se vogliamo, è anche il collasso della politica, che stavolta non è responsabile direttamente, ma è sempre presa in contropiede dagli eventi, forse perché si è arresa da tempo al continuo sfilacciarsi della vita pubblica e alla perdita di senso della convivenza civile.